Margherita Banelli, cantina del Valdarno Superiore. L'export è in forte aumento, infatti negli ultimi 5 anni è incrementato più del 10%. Ecco, quali sono i paesi dove viene proposto il vostro prodotto? Fondamentalmente Cina, Stati Uniti, Canada e adesso ci stiamo aprendo al mercato russo. Qual è il problema della distribuzione italiana? In altri paesi si stanno muovendo più velocemente, come la Francia ad esempio? Sì, sicuramente la Francia ha iniziato prima e ovviamente adesso in un momento di crisi continua a raccogliere i frutti, invece i paesi che come noi hanno iniziato dopo in un momento di crisi globale come questo non riescono a entrare perché già il mercato è saturo. Cosa avete di meno rispetto ai francesi, cioè come strumenti? Sicuramente non ci manca il prodotto, quindi il prodotto, la qualità c'è, ci sono anche le persone che hanno voglia di portarlo e farlo conoscere, però forse manca a livello amministrativo ancora l'interesse a investire a livello proprio dello Stato, dei consorzi, ad investire per poter aiutare i produttori, i piccoli e medi produttori a proporre appunto il prodotto all'estero, quindi ad aiutare ad esportare.